L'invito alla vicinanza pastorale alle persone omosessuali, la pervicacia nel dialogare con rappresentanti di altre confessioni cristiane e religioni, lo sguardo alla Cina, pure, con l'accordo provvisorio per le nomine dei vescovi, rinnovato 3 volte. Di questo pontificato si ricorderanno poi gli assiomi che hanno incapsulato intere realtà ecclesiali, politiche e sociali, cultura dello scarto, globalizzazione dell'indifferenza, chiesa povera per i poveri, chiesa in uscita, pastori, con l'odore delle pecore. Resterà l'insegnamento sui migranti e resterà pure l'invito a elaborare onorevoli compromessi come soluzione ai conflitti. Proprio i conflitti, assillo degli ultimi anni, denunciati in appelli e lettere, alleviati attraverso videochiamate su tutte quelle alla parrocchia di Gaza, o missioni di cardinali per l'invio di beni di prima necessità. La pace è stato l'obiettivo costante. Per la pace Francesco ha chiesto preghiere, ha indetto giornate di digiuno e orazione, ha consacrato Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria, ha organizzato momenti storici, come la piantumazione di un ulivo nei giardini vaticani con i presidenti di Israele e Palestina. Per la pace Francesco ha compiuto gesti rituali, come quello di salire in macchina e recarsi, il giorno dopo la prima bomba sganciata su Kiev, nell'ufficio dell'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Critiche non sono mancate in questi anni nei confronti del Papa argentino, che ha commentato cordate e venti contrari sempre con l'umorismo che, ha detto, è la cosa che più avvicina alla grazia di Dio. Anni sempre densi, con rarissimi momenti di riposo, puntellati da momenti difficili tra processi giudiziari, scandali di abusi e corruzione, il caso Vatilix 2. E non sono mancati i tormenti dati dalla salute, tra operazioni ai gemelli, complicazioni respiratorie, i raffreddori, le influenze, i dolori al ginocchio che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Infine, il ricovero più lungo, 38 giorni, per la polmonite bilaterale. Problemi che non gli hanno impedito comunque di farsi vicino alla gente, come si è visto in queste ultime settimane dopo le dimissioni dall'ospedale, con l'uscita a sorpresa in piazza San Pietro, nella Basilica Vaticana, a Santa Maria Maggiore. Di questa prossimità rimangono le tante interviste, i libri, le prefazioni, ma rimane soprattutto un'immagine. Lui, il Papa, solo, claudicante, sotto la pioggia, nel silenzio generale del lockdown, e l'unico sottofondo di un'ambulanza mentre attraversa piazza San Pietro nel tempo sospeso della pandemia. E la Stazio Orbis del 27 marzo 2020, con il mondo chiuso in casa a guardare in streaming un uomo anziano che sembrava portare sulle spalle tutto il peso di una tragedia che ha ribaltato quotidianità e abitudini. L'umanità era afflitta, ma il Papa parlava di speranza. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo tutti chiamati a remare insieme. Riforme, viaggi, documenti, ristrutturazioni ecclesiali, impegni per la pace, lo abbiamo sentito, e soprattutto al centro del suo cuore i poveri e i migranti. Papa Francesco, in questi 12 anni di appunto nuovi dinamismi e porte aperte per riproporre il titolo del servizio di Salvatore Cernuzio, è come se con lui ci avesse aiutato ad attraversare i 7 mari, tantissime le cose che sono successe proprio anche a livello storico in questi 12 anni. Intanto do il benvenuto a Marco Guerra della redazione dei GR di Radio Vaticana, benvenuto, grazie. Grazie Emanuela, grazie. Ora ci saranno una serie di ospiti che hanno anche avuto l'onore e la grazia di incontrare Papa Francesco in situazioni particolari anche. Sì, che ci permetteranno di approfondire quel magistero che è vastissimo, che come hai poc'anzi detto tu, tocca aspetti sociali, aspetti della fede, che ha interrogato tanto le coscienze, che ha visto i poveri al centro, ma non solo come assistenza, come comunità viva del popolo di Dio, perché non è solo l'assistenza, la carità, ma è mettere proprio la povertà come modello. E questo già è apparso chiaro con la scelta del nome Francesco. Ricordiamoci San Francesco, i francescani, il voto di povertà. E questo, questa visione del mondo e poi si può vedere in tantissimi campi che adesso andremo piano piano a snocciolare con i nostri ospiti. Il primo è un antropologo che ha sempre trattato il tema delle disuguaglianze e degli ultimi, dello scarto, di quella società dello scarto sulla quale il Papa ha sempre puntato i riflettori. Si tratta di del professor Nicola Gasbarro, docente di storia delle religioni e antropologia culturale all'Università degli Studi di Udine, presidente del comitato scientifico Associazione Vicino Lontano. Ecco, non so se è già collegato. Dalla regia ci dicono di sì. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatrici, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Ecco, professore, lei è un antropologo. Papa Francesco col suo magistero è andato proprio a incidere nell'antropologia umana, perché è un messaggio sociale ma che allo stesso tempo incide sulle stessa essenza dell'uomo, appunto con la centralità delle diseguaglianze e della povertà. Credo proprio di sì, credo che questo sia l'aspetto fondamentale del suo pontificato e soprattutto una realizzazione, come dire, antropologica della missione cristiana. L'insistenza di Papa Francesco sull'umanità è dovuta proprio alla centralità dell'incarnazione. Ecco, questo è il punto. E quando si parla di Gesù incarnato, del Dio incarnato, si parla dell'incarnazione in tutti gli uomini, ecco. Questa generalizzazione antropologica, possiamo dire, che corrisponde alla globalizzazione di altri eventi, porta la Chiesa Cattolica a un passo avanti verso il futuro. E questo avviene soprattutto nei confronti della globalità dei rapporti tra gli uomini. Sì, a cominciare dagli ultimi, appunto. Fratelli tutti è un, come dire, un'enciclopedia antropologica di questa cultura dello scarto di cui avete parlato prima, a cominciare da Lampedusa e a finire all'ignobile situazione di Gaza a cui faceva riferimento nel discorso di ieri. Credo che gli ultimi siano al centro del pontificato di Papa Francesco, ma proprio per ribadire questa missione della Chiesa Cattolica nei confronti dell'umanità. L'altro aspetto è quello della natura, il rispetto della natura come al servizio degli uomini, come a dire attenzione a non distruggere la natura che deve servire anche agli uomini del futuro. E professore, abbiamo avuto ospite poco fa il cardinale Semeraro, Marcello Semeraro, che è stato davvero amico di Papa Francesco, e il cardinale diceva questa capacità di Papa Francesco di aver ribaltato il punto di vista, cioè vedere il centro dalla periferia. Questo si può considerare uno stravolgimento, un cambiamento anche antropologico? Come no, è al centro di tutta la sua missione. Più che un teologo, più che un papa teologo, lui è un papa missionario. Il suo venire dalla fine del mondo, come diceva lui, significa proprio partire dalla periferia ed andare al centro. È l'inversione del colonialismo, se ci pensate bene. Ecco perché lui è sempre contro coloro che parlano contro le immigrazioni clandestine, eccetera. Perché il discorso antropologico si è rovesciato grazie al pellegrinaggio della speranza degli ultimi che arrivano al centro. Ecco, questa inversione credo che è il segno del suo pontificato, non solo antropologia ma antropologia degli ultimi e degli scarti. Ecco, messaggi sempre universali. Noi qui dall'Occidente abbiamo una visione un po' ristretta. I messaggi di Francesco erano rivolti veramente a tutte le comunità, risuonano quelli sulla martoriata ucraina, ma dopo gli Angelus c'erano richiami veramente per tutti i conflitti dimenticati del mondo. Sicuramente, se c'è stato uno spostamento rispetto al Papa precedente, è stato dalla centralità dell'Europa all'allargamento al mondo. La fratellanza è una fratellanza universale. Qui c'è una sorta di, come dire, di rivoluzione francese all'interno della Chiesa, nel senso che c'è un rovesciamento di prospettive, non più il vecchio uomo europeo che il logos europeo che si allarga al mondo, ma sono le voci del mondo che devono trasformare il logos europeo. Professor Gasparro, grazie mille per questo intervento che arricchisce il ricordo di Papa Francesco. Grazie. Grazie ancora. E quanto è dovuto ad ognuno di noi, grazie a voi. Grazie, sono le 13:18, in studio abbiamo un nostro collega Michele Raviar, perché c'è un aggiornamento dalla sala stampa della Santa Sede. Ci sono alcuni aggiornamenti e un saluto agli ascoltatori in questa giornata di cordoglio. Il primo arriva dal maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, Monsignor Diego Ravelli, e a seguito della comunicazione dell'avvenuto decesso del romano pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell'ordo exsequiarum Romani Pontificis, questa sera, lunedì 21 aprile alle ore 20, Sua Eminenza Reverendissima e il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara. Sono pertanto pregati di prendere parte al rito, come prevede la norma, il decano del Collegio Cardinalizio, i familiari del Romano Pontefice, il direttore e il vice direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre c'è un altro aggiornamento, come sapete era prevista per il 27 aprile la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. In seguito alla morte del Sommo Pontefice, c'è un comunicato della Santa Sede, si comunica che la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista appunto per il 27 aprile 2025, seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, è al momento sospesa. Ovviamente grazie Michele Raviar, ovviamente queste sono notizie che riprenderemo durante la trasmissione. Io ringrazio Marco Guerra, rimanete con noi, un momento di pausa, poi ritorneremo in studio con l'intervista a Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Papa Francesco è salito alla casa del Padre e ci piace citare una frase di una giovane beata: moriamo, ma ci apriamo alla vita vera. Siamo nati e non moriremo mai più. Quindi scusate, ma c'è l'emozione anche del momento. Emanuela Campanile al microfono, insieme a Marco Guerra. C'è un secondo ospite per parlare di Papa Francesco e la sua eredità.